Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Bentrovati, come tutti i sabati si parla di sfide educative, di rapporto genitori e figli, di relazioni familiari. Il nostro spazio è aperto a tutti, mamme, papà, eventualmente figli all'ascolto, e certo anche a chi genitore non è, perché tutti siamo figli. E qua in studio con me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Figlio, è naturale, ma anche padre ben 4 volte. E così è, ho una buona collezione, una buona esperienza sul campo. Senti Alberto, adesso, oggi io ti dico, e ora basta. Che cosa? tu sai perché, te lo posso dire. Eh sì, hai ragione. E ora basta, perché è il titolo del libro che ho appena scritto, proprio grazie anche a questa trasmissione, in continuità col libro dell'anno scorso, Questa casa non è un albergo. Abbiamo selezionato alcune lettere che abbiamo anche mandato in onda qua nel nostro programma, ed è un libro che cerca di aiutare i genitori ad affrontare alcune delle sfide educative, quelle proprio che spaventano di più, cioè legate alle dipendenze. Un libro quindi scritto, si dice di solito, a 4 mani, ma a più mani, perché molto materiale te l'hanno fornito i genitori. Sì. Che ci hanno scritto mail e richieste di aiuto. C'è proprio la voce dei nostri ascoltatori dentro al libro, ed è un viaggio in tutte quelle aree: tabacco, alcol, droghe, marijuana, classicamente definite come l'area delle dipendenze. Ma poi c'è tutto questo capitolo, tra l'altro, che in trasmissione abbiamo trattato tante volte: i social network, la pornografia nella quale spesso cadono intrappolati i figli preadolescenti, il gioco d'azzardo online, che vengono raccontati perché, proprio come più volte tu Nicoletta per prima hai anche raccontato ai nostri genitori, c'è forse una sorta di matrice comune nello stile dei genitori, ci sono dei fattori di rischio comune, cioè per quale motivo, pur avendo noi così tante informazioni sui danni correlati a tutti questi comportamenti, ci troviamo per la prima volta con generazioni di adolescenti così fragili che così facilmente saltano da un comportamento a rischio all'altro, quasi come se non si accorgessero della pericolosità al quale vanno esponendosi. 800 24 00 24, se volete intervenire potete anche scriverci un messaggio al 349 238 6666, allora potremmo coinvolgere subito i nostri ascoltatori, perché possiamo chiedere a loro di scriverci, di telefonarci, per dirci l'ultima volta che sono riusciti a dire e ora basta ai loro figli, spiegandoci poi come sono andate le cose, perché quando si dice basta poi si devono poi mettere in moto tutta una serie di strategie, di divieti, di sostegni. Alberto, sì, non basta dire ora basta. Esatto, e tra l'altro il titolo è stato proprio scelto perché una delle fragilità più grandi probabilmente di noi mamme e papà di oggi sta nella nostra fatica di riuscire a dire un e ora basta efficace ai nostri figli. Quindi vi lanciamo anche un'altra sfida: vorremmo sentire qualche vostra storia legata al fatto che ci sono stati magari negli ultimi mesi dei momenti in cui avreste voluto dire ai vostri figli e ora basta, però non ci siete riusciti. Avete aspettato, avete detto forse non è il momento. E poi magari ve ne siete pentiti. Allora, oggi parleremo delle vostre storie, di alcune storie che compaiono nel libro di Alberto, di cui subito vi anticipiamo un breve estratto. Da quando mia figlia si è iscritta su Facebook e ha attivato il suo profilo, le sue attività sociali si sono ridotte in modo significativo. Mi sembra quasi che le piaccia molto di più la sua vita virtuale piuttosto che quella reale. Ora comincio ad essere seriamente preoccupato perché lei trascorre ore connessa al computer. Non parla d'altro se non dei nuovi amici che ha conosciuto tramite il social network e che adesso vorrebbe anche frequentare di persona. Peccato che siano persone di cui noi genitori non sappiamo nulla, che abitano a molti chilometri di distanza e che perciò ci spaventano. Così ci troviamo con una figlia che non riesce a farsi un amico nel suo paese, ma che è piena di contatti e conoscenti grazie al web, e che tra l'altro studia sempre meno. Come dobbiamo comportarci? Alberto, una lettera che apre uno scenario interessante, molto frequente, anzi sempre più frequente tra i giovanissimi, ma qui tu non proponi tanto il problema dei social network in sé, quanto quello di come gli adulti, i genitori, devono regolare o possono regolare i comportamenti dei figli. Insomma, la palla torna a noi. Sì, credo che quella delle nuove dipendenze sia una di quelle aree in cui per i genitori è particolarmente faticoso dire "e ora basta" ai figli, e invece una regolamentazione, una limitazione che, così lo racconto anche nel libro, secondo me per i nostri figli è assolutamente necessaria, e i genitori devono proprio imparare in qualche modo a porla nella loro vita. Se non lo fanno, molto probabilmente la stessa facilità con cui i figli si sregolano nel comportamento di uso delle nuove tecnologie probabilmente li vedrà sregolati anche nell'uso, per esempio, di sostanze d'azione psicotropa. Allora, il compito è abbastanza difficile, per questo noi abbiamo chiesto aiuto al dottor Vincenzo Marino, medico psichiatra, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Varese, che è tornato a trovarci. Dottor Marino, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Marino, è sempre più difficile dire ora basta. Sì, diciamo che il compito educativo dei genitori è un compito difficile, perché si moltiplicano effettivamente le occasioni e le opportunità. Ascoltavo con interesse la lettera che veniva letta precedentemente, e mi sembrava che la chiave di lettura in qualche modo fosse nell'affermazione: le piaceva quasi la vita virtuale più di quella reale. Nel senso che io credo che quello che il meccanismo che porta allo sviluppo di una dipendenza è la sperimentazione attraverso l'assunzione di una sostanza o comportamenti, quale il gioco d'azzardo, l'uso di internet, di sensazioni, esperienze, stati d'animo che vengono percepiti come migliori, più gratificanti e desiderabili di quelli forniti dalla vita reale. Quindi il rischio è che la persona a un certo punto scelga di vivere sempre di più in questo mondo colorato, virtuale, stimolante, meno faticoso della vita reale, quindi di isolarsi rispetto alla vita reale. E ora basta. Quand'è che l'avete detto a vostro figlio l'ultima volta? Come ha reagito? Quando avreste voluto dirglielo e non ci siete riusciti, e poi magari vi siete pentiti amaramente? 800 24 0024 oppure SMS al 349 238 6666. In linea con noi il dottor Marino, medico psichiatra responsabile del servizio dipendenze dell'ASD di Varese, che tra l'altro ha proprio appena terminato di partecipare al convegno FEDERSERDE, uno dei convegni più importanti in Italia, che riunisce tutti gli operatori, gli specialisti che lavorano nell'area delle dipendenze, quasi 1000 persone presenti al convegno. Vi siete preoccupati nel vostro convegno di ampliare il focus di osservazione sul mondo delle nuove tecnologie, sull'area della pornografia, del gioco d'azzardo? Che cosa vi siete detti rispetto ai giovanissimi e al loro rapporto con le dipendenze? Quello che è emerso è, come dire, che magari a fronte di un consumo di droghe tradizionale che permane elevato, sicuramente tutti hanno registrato in modo concorde un aumento da una parte del consumo di alcol e nuove droghe, dall'altra relativo alle nuove dipendenze e in particolare al gioco d'azzardo patologico. Nel senso che per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico, in generale il fenomeno è in netta espansione. Noi dobbiamo pensare che negli ultimi 20 anni è aumentata di 12 volte la spesa relativa ai consumi di gioco. Quindi noi spendevamo per esempio 5 miliardi di euro l'anno negli anni 90, ne spendiamo oggi 60 miliardi e nel 2011 si pensa che diventeranno 70. I giovani sono una delle categorie che gioca di più, quindi per esempio il 55% dei ragazzi ha dichiarato di aver giocato d'azzardo, e i giochi coinvolti sono soprattutto dei giochi come il gratta e vinci, come le slot, giocati presso luoghi di facile accesso, che sono dei giochi particolarmente pericolosi perché innescano facilmente dei meccanismi di condizionamento. Cioè uno tira la leva, ha immediatamente l'esito del gioco. Questo breve intervallo tra l'esito del gioco e il comportamento è proprio quello che innesca quello che gli psicologi definiscono comportamento operante. C'è un meccanismo che ti cattura e ti porta dentro in qualche modo questo tipo di coazione a ripetere. Abbiamo in linea con noi Cristiano, ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Cristiano, benvenuto, si accomodi. Grazie, buongiorno. Ci racconti? Ma a proposito del quanto sia difficile dire basta, oggi il basta ultimativo che mia moglie ha inteso dire al figlio Lorenzo, che compie 10 anni, è uno di quei basta che è un po' una somma, è un punto finale, nel senso che lui oggi ha il suo compleanno con 20 bambini invitati, con i regali, i dolci, tutte le cose che si fanno sempre. La mamma è talmente arrabbiata per il comportamento di Lorenzo, che non vuole ascoltare, che il suo basta si riassume nel "non vengo alla tua festa", che mi sembra che vuol dire che siamo veramente a un punto in cui questi ragazzi non ci ascoltano proprio più e bisogna togliergli anche la gioia di stare insieme nel giorno del 10° compleanno. Cristiano, che cosa è andato così tanto in crisi nella comunicazione tra voi e il vostro bambino di 10 anni? Cioè, per quale motivo, secondo lei? In realtà il bambino è bravissimo, è intelligentissimo, è talmente bravo che io gli dico che è un bambino tecnologico, e questo suo essere tecnologico fa sì che dedica il 95% del suo tempo a lui, a Nintendo, adesso recentemente a Facebook, su cui abbiamo cercato di rappresentargli i pericoli, e il 5% se rimane è per i genitori. Non sarebbe neppure tutto qui il problema è che questo 95% di comunicazione tecnologica gli toglie la voglia del rapporto umano, come dicevate giusto, anche in famiglia, per cui si stancano talmente tanto sul virtuale che poi sul reale rimane quasi più niente. Dottor Marino, ho bisogno di un suo commento. Cristiano ci sta dipingendo un quadro che è sempre più frequente e fa di nuovo riferimento a quanto lei ha detto nel suo primo intervento, e cioè che questa vita virtuale ci fa sempre di più allontanare dalla vita reale. I genitori non trovano più spazio. Si doveva... La vita virtuale non ha le difficoltà della vita reale, ci trasmette una sensazione di onnipotenza quasi magica, ci permette di cambiare identità, di definirci maschi, femmine, alti, biondi, bassi, ed una immediatezza che sicuramente, come dire, ci entusiasma. Naturalmente il rischio è, come giustamente osservava il papà, e che si impoverisca, si arrivi a un isolamento, e questa vita, questa modalità venga preferita a quella reale, quindi ci si isoli e alla fine si accumulino una serie di problemi. Secondo me la strada, l'alternativa è quella in qualche modo di rendere significativa la vita reale, incoraggiando in qualche modo i ragazzi a capire che poi alla lunga è quella che paga, insomma. Questo vuol dire che se per esempio ognuno a casa è isolato col suo PC o col suo televisore, se non c'è uno spazio di dialogo, se non c'è la possibilità di stimolare altre attività significative, lo sport, insomma delle attività sane che hanno a che fare con la relazione con gli altri, probabilmente tutto questo favorisce, diciamo così, l'isolamento e l'utilizzo della modalità virtuale. Io proprio un consiglio velocissimo per Cristiano, secondo me la diagnosi l'ha già fatta lui: 95% di coinvolgimento con Nintendo, videogiochi, PC, Facebook a 10 anni è davvero troppo. Lei ha visto molto bene il problema del suo bambino, e siccome il suo bambino ha solo 10 anni e la mamma e il papà hanno molto più potere di un bambino di 10 anni, voi avete nella vostra potenzialità di mamma e papà la possibilità di ribaltare quella percentuale, 95% in altre attività, 5% dentro al mondo virtuale. Forse è troppo questa percentuale per un bambino che parte da 95%, però cominciate a fare 50-50 e l'obiettivo dovrebbe essere magari 80-20. Dove sono i genitori? Hanno il potere e il dovere di spegnere il computer, ci scrive Silvia. Allora io, Alberto, ti chiederei, prima di arrivare a dire ora basta, ci sono sicuramente dei segnali, degli interventi che noi possiamo mettere in gioco per evitare che il problema poi diventi serio, si faccia serio e poi difficile da recuperare. Ma intanto dire un e ora basta che è efficace per un figlio significa essere stati capaci nel percorso di crescita di apparire autorevoli davanti a un figlio, il che significa che se io dico a 15 anni a mio figlio e ora basta e lui in qualche modo si sintonizza con il mio divieto, vuol dire che io già a 3, 5, 7, 9 anni sono sembrato per lui un papà o un genitore credibile ed affidabile. Il secondo aspetto è che tutto quello che si sregola poi nei comportamenti trasgressivi degli adolescenti deve essere un po' previsto dai genitori, cioè la vera prevenzione del tabacco, dell'alcol, delle droghe non la si fa a 14, 16, 17 anni, e su questo il mio libro è molto chiaro, cioè c'è proprio un mondo di conversazioni, di esempi, di messaggi, proprio anche di critica molto forte a quello che entra nella vita di un ragazzo. Sfogliate uno dei giornali delle vostre figlie, ci troverete spesso foto dei loro idoli pop o dei loro idoli del cinema con una sigaretta in bocca, con un bicchiere di alcolici in mano. Per quale motivo loro, che dettano il modello dei comportamenti per le nuove generazioni, sono spesso fotografati proprio in quei comportamenti che voi come genitori vorreste prevenire? Discutete con i vostri figli del fatto che la loro vita è sospesa tra il mondo dei valori trasmessi nella famiglia e un mondo di valori che invece entrano nella famiglia potentemente pilotati dagli strateghi del marketing. Quanto prima, quanto meglio, ma non è mai troppo tardi, Alberto, perché noi tante volte diciamo ai genitori si doveva cominciare prima, ma magari i genitori per una serie di ragioni non se ne sono accorti. Ecco, è molto importante, e di nuovo nel libro lo sottolineo, che anche dopo lo facciano i genitori, ma lo facciano anche gli insegnanti e i ragazzi imparino a farlo tra di loro, perché poi nel gruppo che ci si può lanciare messaggi protettivi molto potenti. Andiamo a sentire un'altra lettera che ci dà spunto per un'ulteriore riflessione. Non mi sarei mai aspettato di avere un figlio quindicenne porno dipendente. E invece devo fare i conti con questa realtà. Dopo aver sospettato a lungo che c'era qualcosa che non andava nel suo modo di usare il computer, spesso si chiudeva a chiave in camera per ore e non ne usciva più, ho chiesto un giorno a un amico che ha competenze tecniche di verificare le navigazioni dell'ultimo mese. E lì ho fatto la triste scoperta. Siti pornografici di varia natura con contenuti che ho trovato davvero estremi ed espliciti. Siamo tornati insieme e da questa casa non è un albergo ci trasferiamo a casa Ozza, Torino, un luogo di accoglienza e servizi concreti, un luogo dove i genitori possono trovare qualcuno pronto ad ascoltarli, ad affrontare con loro anche problemi concreti che la gestione della malattia di un figlio comporta. In linea con noi abbiamo Alessandro Baricco, buongiorno. Buongiorno. Che clima si respira lì a casa Ozza, che si trasferisce? Beh, sotto il grigio tipicamente torinese depressivo invece c'è questa fiammata di questa casa nuova e che è anche molto allegra, devo dire, e molta gente che festeggia questa apertura, che è molto importante perché è il traguardo di 2 anni di lavoro. Non ho lavorato io, vorrei chiarire, è un gruppo a cui io sono legato per diversi motivi, ma non sono io che ho fatto tutto questo assolutamente, sono loro, ma insomma hanno fatto anni, qualche 2-3 anni di lavoro nel progettare questa cosa, nello sperimentarlo prima in un'altra sede più piccola, e oggi finalmente inaugurano. E oggi mamma e papà di Torino, della zona, sono proprio invitate a visitare Casa Oz. Lo slogan è vieni a trovarci, portaci qualcosa di tuo e ti racconteremo tutto di noi. Io trovo che un genitore che sta affrontando la sfida della malattia di un figlio e si vede vicino altri genitori, mamma e papà, semplicemente lì per dirti io sono di fianco a te, io ti passo un po' della mia forza, probabilmente riescono a attraversare questo tunnel faticoso con molta più energia. È questo un po' il senso dell'inaugurazione di oggi? Lo chiediamo sempre al nostro amico Alessandro Baricco. Sì, perché loro, questo gruppo qui di Casa Oz, così ha individuato un po' questo terreno di grande difficoltà, cioè famiglie che devono attraversare questo passaggio duro che è la malattia di un figlio, malattia anche grossa, grave. E lì, al di là del problema proprio così, diciamo, di carattere medico, c'è tutto un problema di così intanto psicologico, perché sono parentesi della vita che colgono alla sprovvista, non si hanno gli strumenti per affrontarle, e allora ecco, parlare con altri che le stanno affrontando anche solo è una cosa che aiuta, e se non con degli psicologi, dei medici. E poi in realtà queste situazioni creano un sacco di problemi proprio pratici, dove andare a dormire, come mangiare, come lavare la roba, per dire, semplicemente, perché spesso per seguire i bambini che sono malati, certo, si va in trasferta, in altre città, ecco, per cui ecco, nasce un po' dall'identificazione di questo problema e dal tentativo di risolverlo nel modo più luminoso, diciamo, cioè per portare luce nella vita di tutti. In quei e ritrovare, di... Alessandro, ritrovare un po' di, direi, spazi di normalità, anche di gioco, di compagnia e di sostegno nel questo percorso difficile della malattia e della cura, penso anche ai fratelli. Eh sì, per tutti, perché ci sono i genitori che sono in difficoltà, ci sono spesso i fratellini che vengono portati ovviamente dietro un po' come delle valigie, perché lì prevale in quel momento l'emergenza legata al bambino malato, no? E qui effettivamente ci sono le stanze per giocare, poi c'è il laboratorio, c'è la cucina per mangiare insieme ad altre persone, c'è la stanza in cui puoi andarti semplicemente a sdraiare e respirare un attimo mentre qualcuno si occupa dei tuoi figli, e il tutto è fatto in modo che ci siano spazi, luce, dimensioni, colori, oggetti che ti reintroducono in una normalità, non dico lieta, ma magari anche sì, però per qualche momento, no? Allora, grazie ad Alessandro Baricco, ci saluti Casa Oz, noi ne abbiamo parlato e torneremo a seguirla, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Un abbraccio a Casa Oz e noi andiamo a Roma, c'è Claudio, 800 24 00 24, rientriamo nella quotidianità di una famiglia. Claudio, la sua come sta andando? Senta, vi ho tutti i complimenti, perché queste sono le trasmissioni che servono più che altro sia ai genitori che ai figli. E poi volevo soltanto, cioè io ho due figlie oramai grandi, perché una 30, una 28, e sono contento e soddisfatto di avere un nipotino di 4 mesi, però io non mi ricordo da quando ho figli di aver mai detto a loro, arrivati all'età della ragione, adesso basta. Cioè il mio unico comportamento nei loro riguardi è quello di dare un esempio costante, da quando hanno iniziato a capire. E questo è stato tutto, sia io che mia moglie. Poi ho avuto la fortuna di avere una moglie che ha accudito e ha dato tutta se stessa per le figlie e per la famiglia. Io mi sono sacrificato lavorando, facendo anche 3 lavori. E adesso vivo di tutti gli interessi che mi si sono creati gettando tutti i sacrifici, e sono contento e soddisfatto di quello che ho fatto. Grazie Claudio, auguri anche a suo nipotino. Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ho chiamato perché ho sentito di quel padre appunto cui i figli dedicano il 95% a social media, attività insomma su internet, e il 5% alla loro famiglia. Vabbè, io opero nel settore, in una società che proprio sfrutta il canale dei social media, e mi ha un po' stupito quando poi gli interventi successivi sono stati bisogna limitare, cercando di obbligare i figli a non entrare all'interno di questi siti. Non entrare, ma utilizzarli. Sì, io penso però dare regole forti che in qualche modo mettono anche limiti chiari su quantità del tempo dedicato e anche qualità delle navigazioni, però sono molto incuriosito adesso di sentire il suo parere, Luca. No, cioè, allora sicuramente è chiaro che la proporzione 95% è troppo. Media è completamente spropositata, è ovvio che in qualche modo deve essere bilanciata, però io credo che si è parlato di mondo virtuale, in realtà non è un mondo virtuale, in realtà è il mondo dei nostri figli. perché è il mondo dove comunque loro sfogano tutta una serie di anche problematiche che hanno. Poi i figli di questa persona mi sembra che fossero dei teenager o comunque, per cui bisogna anche capire che cosa trovano. Io credo che YouTube con Broadcast Yourself abbia sintetizzato veramente il significato di questi, di questi luoghi di incontro, proprio quello di creare del networking, creare comunque dare sfogo a tutta una serie di cose che evidentemente in famiglia si pensa che non siano capite. Per cui io credo che sia anche un ruolo della famiglia poi capire questi social media, che cosa effettivamente danno, perché comunque poi bisogna anche condividere queste cose con i figli e essere anche in grado di interpretare, trasformarli in uno strumento anche di benessere, non dare far sì che in qualche modo allontanino dalla vita reale. Il dottor Marino magari ci può fare un commento. Dottor Marino. Sì, io credo che internet non sia, come dire, è uno strumento, quindi non è né il diavolo né la salvezza. Naturalmente ogni strumento, così come lo è stato il telefono, come lo è stato la televisione, ogni strumento può essere utilizzato bene oppure può costituire una fuga in qualche modo dalla realtà e costituire un problema. Faccio degli esempi banali. Il cibo ci è essenziale e senza cibo, come dire, non potremmo vivere e svilupparci, però è evidente che la bulimia è un'altra cosa, è una compulsione in cui il rapporto col cibo diventa morboso, esclusivo e che alla fine danneggia profondamente l'individuo. Allora credo che il problema non sta nella sostanza, non sta nel comportamento, sta nella modalità di relazione che si stabilisce fra la persona e il comportamento. Questa modalità, laddove è esclusiva, compulsiva, abnorme, tradisce come dire, uno scarso equilibrio nella vita complessiva relazionale, e quindi bisogna capire da dove viene. Quindi dico questo perché anche quando si è costretti a dire ora basta, secondo me è opportuno, come evidenziava prima Alberto, collocarlo in un contesto complessivo di relazione, di dialogo, di incoraggiamento, ma anche di comprensione di che cos'è che non va nella vita ordinaria e che porta in qualche modo ad amplificare questa modalità. Alberto, nel tuo libro tu individui una sorta di profilo di protezione che il genitore può mettere in atto per salvaguardare un figlio dalle dipendenze, in una scheda che richiama 7 punti fondamentali della tua strategia pellaiesca di protezione. L'ascoltiamo. Le 7 regole d'oro per crescere un figlio capace di dire no. Stategli vicino. Parlate di tutto. Chiaritevi le idee. Ascoltatelo sempre. Siate pazienti. Siate orgogliosi di lui. Lavorate in squadra. Alberto, non possiamo parlare di tutti i punti perché abbiamo proprio un minuto. Io decido di partire dal fondo. Cosa significa quel tuo lavorare in squadra? Sì, sono slogan, sono ben spiegati nel libro. L'ultimo dice: lavorare in squadra significa che mamma e papà devono essere alleati intorno a un progetto educativo, lanciare messaggi molto molto chiari a un figlio rispetto a cosa sì, cosa no, e credo che l'altra cosa è l'alleanza con tutti gli altri genitori. Ne parliamo tantissimo anche qui a Questa Casa Non È Un Albergo. Noi genitori siamo proprio una squadra che sta crescendo non solo i propri figli ma tutti i figli degli altri, e quindi più ci chiariamo le idee su cosa vorremmo per i nostri figli, più abbiamo potere d'azione e possiamo esercitare una genitorialità individuale, cioè familiare, ma anche sociale. Dottor Marino, allora noi continuiamo a fare squadra, speriamo che lei ci venga a trovare presto. Senz'altro. Noi ci salutiamo, Alberto, ci diamo appuntamento per il prossimo sabato. Questa Casa Non È Un Albergo è sempre aperta, potete scriverci a esserebenessere@radio24.it. Alberto sarà lieto di rispondervi. Alberto, un compitino per questa settimana. Ma direi provate a dire a vostro figlio qual è quell'area della sua vita in cui a volte avrebbe bisogno che voi gli diciate e ora basta. Ed è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.